andar bien, claro. Andare. Capito, anche tu. Hanno fatto proprio una bella situazione. Però c'ho tutto, mi è rimasto tutto perché non ho venduto niente. Qualche radio l'ho venduta, però il resto c'ho tutto. Ma non vendo più niente. Questa qua me la tengo cara, c'ho tutta la linea, boh, anda più basso che bene. Cosa barattini, per carità. C'ho il coso anche, il 78, il 48, un 48 modificato, con scheda, con tutto là. Poi c'è un altro ala 68, poi c'è un Tokai 5024. Non so cosa c'è, e dopo c'ho il coso, il magno, le scenopre, casa mini boh. E già lo so, quello le senove, se un giorno ci ripensi parlane con me. Quella è una bestia, tu, quella è una bestia, io la troppo per vedere questo giorno, quella è una bestia lungo, quello piace a forte, c'è una modulazione allucinante della radio. Lo so, sarebbe stato il mio sogno averne una qua. Allora io l'ho preso praticamente davanti vicino a casa, che lui era camionista, siccome ce n'è disfatto, malato. Il 48 modificato, antenna, una sigma, una piccola mille, e la farei con tutto lo vantaggio. Cazzo che è mancante, cioè quel tipo di apparecchio te l'ha dato quel prezzo lì. Apparecchio, antenna, tutto lo vantaggio. Ma non sai quanto ci vale quel tipo d'apparecchio? Sì, già lo so, ma a me non mi piace più di tanto. Sì, è vero, vabbè, va bene nella macchina, ma non lo puoi usare a casa perché prende così e l'altro no. Oh, non ne compra di più nulla, no? Certo che l'ho provato a casa un giorno. Sentivo le persone, allora, se tu eri su 10, io me ne andavo su 12, ti sentivo, pensa tu. Sì, soprattutto la stazione forti, tipo noi che magari ti arriviamo sparati lì e ci senti per forza. Ma già me la sentivo su tutti i canali, pensa tu, se già me la su 10 ne stava parlando, io la sentivo nel 15. Ah, e tu? Questo tu ti non ne prendi. Ma neanche per soldi, ma nemmeno tu vuoi rendere in su 10, c'hai il filtro questo qua, li metti il filtro, silenziosissimo. Io comunque c'avevo quel tipo di boomerang che mi stai dicendo tu, ce l'avevo io, l'ho venduta a una persona del soddisfattissimo. Ma io questa che ho qua non la vendo a nessuno, addirittura ho questa, la mando qua 5 del mio canale, la devo piazzare, con tutto il radiale, perché lo farò per tempo, per quella lì. Con 203, stato non ce ne vorranno poco, anche quanti anni, neanche 30 metri di... con 25-30 metri, e più c'ho la cosa, non ce la conosci, ma la Grand Prix. La Grand Prix potrebbe andare lo stesso, non vai, l'Assirio. Ah, di quel tipo dell'Assirio c'hai? Scappa di positivo, quella tutta in alluminio, con i raccordi, con i volucini che la fissi al tubo, capito? C'è il piede centrale, il capo passa all'interno del tubo. E già la conosco, lui c'ha pompato un bene. Qui c'è lampada in ovvio, mi lampada in garage, c'è la più lampada. Qui c'è bomba un bello. Ma ti ha fatto questa qua. Sì, a livello di antenna rende più di questa, Normale, ma la Sirio c'ha dei prezzi allucinanti, c'ha. E questa non è quella lì, non la fanno più perché è il modello vecchio della Sirio, capito? Che se una cosa ne droppo. L'unica cosa che mi sono un pochettino bloccato, perché prima la volevo prendere e poi non l'ho presa più, la Game Master. L'hai già comprata? No. Ma io ne aggiungerò. Mi ha costruito una, addirittura, e funziona a pompa di una bomba. Solo che il vetro flette troppo, capito, non mi fido a piazzarla, è lunga quasi 8 metri, No, fra. Ma capisci, ho visto le ultime, non mi fido più. Si fasciano subito, diciamo. Se non sono piattate bene, si spettano, Mi metto tra la tocca in due. No, ho paura, cazzo, se me ne guarda in occhio è un casino. casino. Ma vabbè, se non è molto, se no è punto molto alto, non succede niente. Se la piazzi bene, va bene, capito? Il problema è, io ne costruisco anche una toccana alla pesca e va benissimo, tarata, perfetta. Passando agli ultimi cosi, no, cazzate, avrà molto affidarmi, no. L'alluminio, l'alluminio, retroresina, retroresina. Ricordiamoci sempre di questa cosa qua. Eh beh, certo. E poi quella che ho costruito io, gli ho messo filo da qua, capito? Anzi da 3,5, quello che ci ho messo io, quella da qua. Ma poi gli abbassi, che ne chiede? Sì, sì, sì, non c'è problema per quello. Ma il barattino è lo stesso, e tu metti un barattino nella macchina e c'è il filo fine, e tu lì mi cambi il filo, ti rende molto di più, capito? Che non lo so. Se i baracchini, quelli che vendono, hanno il filo troppo sottile, prova a cambiare il filo e mettere quello più grosso, il filo da 1,5 per come rende. Che cosa fra? Il capo della rotazione. Ah sì sì, e poi cosa, no, non andava bene su che fai, quello che c'è in dotazione. Per carità, dipende da capire il chiodo, quella parecchia che c'hanno il coso, la stessa cosa, cioè il filo fine fine, se lo cambiassi gli ho messo il filo da 1,5, capito, e vai, rende molto di più, meno assorbimento e tutto. Sì, già lo so, vabbè chi ti questo che sto utilizzando, 4 watt, cosa di quei buoni? Ma chi so di la maravà, chi so che è grosso, via? Beh, con quello grosso vorrebbe di più, capito? Cioè, il meno assorbimento è tutto. Il filo più sottile è, di assorbimento non c'è in apparaggio. E questo del... E da poi per puro sostanza sotto, eh. Ha manco lo fate bumpare un poco. Beh, io qua non lo attacco, perché, cazzo... Ma il filo, perché il filo è troppo sottile, capito? L'R158 non tiene, poi l'antenna arriva sopra, ma gli posso dare più di quei batteri, capito? Non sopra, non è fatta per pompare così tanto. E boh, questa antenna, ti ricordo, 200 watt sopra, l'antenna la bondi. Addirittura il capo, una volta ho provato, attaccato, il capo è diventato cingoma. Capo, sembrava un elastico, cingoma, lì. Ma poi un'altra cazzata che ho fatto la caduta, stavo provando un'antenna, una 1000. Ah, una 1000 è così, giusto per provare, no? Ho provato a schiacciare la portata, cioè quel dito attaccato alla cosa dell'antenna, mi ha bruciato il dito. Sì, vai in ora buona. Allora, tu prova a toccare l'antenna e chi c'è la portata, a vedere. Già lo so, già. E di quanto cavolo gli hai dato? Ma era poco, 150. Ehi, allora. Beh, quello che c'era tutto me l'ho venduto, c'era la pescatura addirittura che tira qua, 740, capito? L'ho venduto, ho fatto fuori perché qua non lo potevo neanche usare, come ti attaccava, cantava cantura. Ah, ci ciudava tutto? Sì. Beh, non vedo un gruppo d'elettrogeno. C'è un gruppo d'elettrogeno, quindi a cosa non ce la fa? Oh, lì, perché ci vogliono figo qua per tenere. E già lo so già, e un anno vedevo, guarda che non hai problemi. Ma devi andare con la bulletta di Raluzzi, via! E già lo so, ma cosa basta un po' chi guarda, ma fa sentindì, non c'è bisogno di spingere così tanto. Ma qui a casa di cosa ti mangio, ho pescato del genere, per carità, però va bene se devi parlare fuori, e allora è tutto un altro pianeta, capito? Quindi dicevi va giro fra. Ma non ve lo dico fra. Io so una volta che... Lascia perdere, dai, non fa vedere uscire da qui. E io Antonio non ho visto niente. Antonio non ho visto niente, io perché vi dico lasciatemi stare in certa pace a me. Lasciatemi tranquillo. Tu immaginati tanto quello che ho io, in lineare. Non ce la fa neanche il contattore di casa. Immagina già di due, quando lo usavo io ero attaccato alla porta motrice e all'ascensore. Ora ammara. No. E poi succederanno, capito? Perché iniziamo, prova qui, prova là, ti passo, ti crepo, ti passo, ti crepo. Mi ci girano i bibilicri. Lo riattacco e allora vi faccio ballare la samba. Sai cosa vuol dire che vi faccio ballare la samba? Tutti battenti, sì, ti. Perché c'è tanti cacca e luzzi in chi mi adorano. Allora, io quando usavo quell'amplificatore, un camionista, un carissimo amico camionista che adesso non sta lavorando più in pensione, mi sentiva dentro le gallerie a fondo scala. E dimmi che ha sorpresa, qui mi ha detto la sorpresa è stata offesa per portarlo su anche due persone. Dice c'ha le maniglie per portarlo, prendevamo io e Franco per portarlo su, fatto un buon. Capito? Ma di cui dato un'imbazzinata, una voce in via Pascoli, che avevo anche bisticciato con tuo padre, ho avuto parole con tuo padre proprio per gli splatter. Cazzo, non sentiva niente nessuno, tutto già si era splatterato, tutto già, tutto. Capito? Gli ho dato un'imbazzinata, mi è arrivato 350 euro di luce, ha giusto, boom, io togli le valvole. Conserviamolo e mettiamolo dentro l'armadio. Io ancora dentro l'armadio, mi cosa me che non vi raggio più. Sì, a freccia. E già me lo ricordo già. Il giambarizzo, quello nero, la ferosa nera. Ne ho tre di lineari a valvole fra. Uno è quello da 2 kW, l'altro è 1 kW e l'altro è 700-800 watt. Capito? E poi ne ho due tracettorizzati, uno comprato a poco quest'estate, che l'ho usato un paio di volte, Antonio gliel'ho fatto sentire, ti ricordi? Che ha muovato la brua, ti ha giunto attaccato a legnare, brua fa vedere, che non ti sentiva neanche Marco, neanche Gianni. È micidiale, cioè da qua su, se io dovessi aumentare la potenza, è che io sono tranquillo, uso sempre 10 watt, massimo 20, come adesso, tra 10 watt modulati 20, ma se dovessi aumentare la potenza, ehi, allora ce la bisticciare, capito? Perché splatteri, spughi a destra, a sinistra, ma non serve più a niente, oramai, sono finiti le lotte. Ah, se voglio burinare, no, che me, faccio il buco lì, metto 213, nel video a 700, è puro e no, che dopo battaglia, cioè, sapete come di Mavicenda, 700-800 watt, allora siamo tutti e due a pompa, tutti e due pompende volte. Ma poi però sarà mi cude voce quando arrivi la bolletta. Tu ancora non vuoi capire che tu puoi mettere la potenza che vuoi da dove sei, capito? Io solo con l'altezza che ho e la posizione che ho, minimo te ne mangio 10 punti, con la stessa potenza. Non puoi competere, ma né tu né nessuno, Antonio, lascia perdere. Lascia, tu puoi mettere la potenza che vuoi, abbiamo già fatto queste prove. Non puoi con me assolutamente, poi con gli altri puoi fare quello che vuoi, ma con me scordatelo di potermi dare fastidio, anche se metti un kilowatt, capito? Uno ne metto io, no? A parità di potenza, un kilowatt lo metti tu, uno lo metto io e un kilowatt io ce l'ho sopra il tetto però, per l'altezza che ho, no? Solo l'altezza e la posizione che ho già te ne prendo 10 punti. Vabbè, però magari con gli altri battaglia, un casino, magari se io vedo anche uno galassidotti, io da qua non capisce più niente, capito? Cioè non riesce a modulare più nessuno dai nonghi, cioè se fare una cosa del genere, poi gli dici tu, finito di modulare, o va nello stesso canale o non si comprende più nulla, lo sai il casino che faccio da qua? Cioè tu su, io qua, cazzo mica succede un casino meno che... Non perché voglio competere con te. No, ma non c'è neanche competenza nel senso di radio, perché tu hai un problema, che usi il baracchino, o ti compri un HF e quindi splatteri, ma non senti splatter, e altrimenti ti butti, capito? Invece io mi sentono, ma io non sento niente, io non sento niente, io mi squantonello nel canale 14, pompando, io nel 10, io mica lo sento, lui mi sente col baracchino, ma io mica lo sento con gli HF, è chiaro che io modulo con questi, attacco l'amplificatore grosso all'HF e i discorsi sono quelli, ma non si può fare una cosa del genere, non si fa più, non è che non si può fare, non si fa più perché non c'è più divertimento, prima ci divertivamo a fare queste trontate, via tu. male c'è finito tutto. E cappa, non so, prima altri tempi, ma per me forse me ne vorrò più in là, me ne prenderò uno un po' più grosso, basta, giusto per andare più in là. E boom, ma alla fin fine poi. Cosa si maggiuga? Ma sentito? Ehi, Anto, che sono andato a girare le patate, cioè mi ci attacca tutto. Ehi, già ti ho capito io, sì. Io ti ho capito. Io lì, nella posizione dove sei tu adesso, un po' più avanti, la via del Portofrose, che tra l'altro è molto più aperta della tua, con Salvatore Maestrale, quando abitava lì, facevamo delle cose allucinanti. Lui con un lineare grosso da 700-800 watt, io col mio, ma allucinante, arrivavamo tutti e due dalla parte del latte dolce, arrivavamo tutti e due uguali, lui cercava di passare, mi dava fastidio ma non passava, non si comprendeva nulla perché lui è molto molto attaccato, ma in altre zone, io ne prendevo mille di segnali, mille. Già lo so, già. Però via Pascoli non lo so come eri. Magari c'avevi più la zona più aperta, la zona più diversa, dai. No, via Pascoli è micidiale lo stesso, non mica altro quel palazzo, è un bel pezzo. La zona di mare era favolosa. Ero calato un po' nella zona dopo le gallerie, giustamente. E un po' verso Alghero, però Porto Torres e tutta la zona di mare, e dentro Sassari era favolosa quella zona. Qua è a 360 gradi, avevo capito, il problema è quello, che qua è a 360 gradi. Tu prova a chiedere a Luca Manicomio e a Luca Flipper cosa ci vede da casa mia. E che cosa c'ho? Cioè, nel senso che non ho niente, è a 360 gradi. Tu fai la rotazione a 360 gradi, non hai un ostacolo, e quello è molto importante, capito? Poi devi sapere che io nel mio tetto, perché tegole non ce n'è, il tetto, è rivestito tutto in alluminio, capito? È cartone cartramato fatto da Nigra, e poi è rivestito, c'è la pellicola di alluminio, c'ho un piano di massa. Io non ho mai, perché io non fischio le antenne, non ho, io posso avere solo un problema interno di qualche spezzone, ma non ho stazionarie, o un piano di massa allucinante, perché il mio tetto è rivestito in alluminio, con la pellicola in alluminio, capito? Oh, bello così, cavolo. Io non che faccio il dio, nebbo. C'ho le tegole. Bello così, ma magari faccelo io. Guarda, è che io non voglio andare contro mia moglie, perché insomma le cose le ho fatte sempre in due. Ma tu immagini che io ho un altro appartamentino su, no? Dove posso mettere 8 metri di cavo, non sai cosa vuol dire? Che recupero ancora di più, ma molto molto di più, perché io ho quasi 50 metri di cavo, non pensare che ne abbia o un cavo buono, un'unica calata, dove ho fatto le cose fatte bene. C'è il commutatore elettronico che mi commuta qualsiasi tipo di antenna, quindi si è perdita pochissima, però se mi voglio trasferire su, fare per esempio un box su e portarmi le radio su e farmi una seconda, per dire, sarà radio su, sarebbe ancora più micidiale, perché non ho cavo, quindi perdita zero completamente, lineare lavora molto molto meglio, spezzoni non ne hai, non c'hai niente, però mi isolo troppo e mia moglie non vuole, capito? Sicuramente una volta una casa, perché sai come cioè, magari ti vuole vedere, le donne sono così, magari ti vuole vedere lì, mi capito? Magari un dialogo, una cosa. No, ti isoli troppo. Io quando mi sono portato, quando ho smontato, no, ho fatto tutti i movimenti, tolto le direttive, eccetera, ho fatto spostamenti, eccetera. Ho spostato la mantova dove è adesso, e per accordarla bene, perché l'ho tutta smontata, fatta a pezzi, ripiazzata, pulita, eccetera, ho messo la spirale nuova, tutta la bulloneria nuova in acciaio, eccetera. Ho detto, per tararla bene, mi porto il baracchino su, l'elbex mi ho portato, l'alimentatore. Ho attaccato il cavo, ma tu sì, a casa. Ci arrivendi oltre il più del 30. Metto, così, come sono adesso, col baracchino, 10 watt. Ehi, tu immaginati, cioè, proprio micidiale. Micidiale perché non hai perdita, non hai niente, capito? C'hai praticamente l'antenna diretta. È già vero, già. È vero. Però io qua c'è poco capo, cioè... Cioè, vabbè, non ho 200, non ho H1000, non ho niente, però... Mi accorgo che i segnali vanno bene, cavolo. Sicuramente ce ne avrei avuto molto di più, ma avrebbe dato molto di meno. Beh, sicuramente sì, sicuramente. Però io ti ho detto, se tu fai quell'esperimento che ti ho detto io, non usare il 213, non usare, cioè, anziché l'RG58, c'è l'H100, l'H110, che sono leggermente più fini del 58, ma hanno una perdita zero, capito, per quei metri che devi usare tu. E ti funziona molto, molto meglio la radio, l'amplificatore, tutto, capito? E non so se ce l'ha Fusaro quel cavo, bisogna chiederlo a Giulio, che lui è molto, molto informato su queste cose. E hai perdita molto, molto, molto inferiore. Ebbene, si buca, io lo sto cercando, ma non ha già ciappato. Che se no ti ho detto, se tu vuoi fare, quanto c'hai, 8, 10 metri, 5 metri, io ce li ho rispetto ai 213. Si fa, ti ho detto, nel telaio dell'abbaino, si fa, del basculante, si fa un foro, si fa entrare il cavo senza il PL e te lo porti, te rinasci un pochino per terra, per dire, no? E te lo attacchi al coso. Quando poi te ne vai lì, ci sono quegli stucchi a legno di tutti i colori, non ha detto Giulio, e lei ha una stuccatina, una carteggiatina e le dai il suo colore. Non si vede niente, non è che gli fasci nuda, capito? Io cosa si è convinto per far entrare i cavi qua? Cosa pensi che abbia fatto? Io ho dovuto bucare l'alluminio, perché i cavi arrivano sino alla finestra. Poi per entrare dentro ho dovuto bucare l'alluminio e far entrare i cavi dentro. Sennò come cazzo li fai entrare? Lo so. Per fortuna, cavolo, c'ho pochissima calata, c'ho. Per fortuna. Vorrei trovare quello fine, sì, però un po', come si dice, quello buono, quello che ha perdita zero, secondo me andrebbe bene, perché non glielo voglio bucare, se no magari Ghiccio, cazzo mi manca, cioè, capito? Se riesco a procurare quello lì sono a dama, ma anche con questo già va bene. L'ho cambiato nuovo, me l'ha dato una persona, me l'ha dato, e questo ha cambiato dal giorno alla notte, ha cambiato. E va bene, dai, 5 metri, cosa cazzo, ma... L'H155 ci vuole, è grigio, ce l'ho io, ce l'ho. Natali. Come? Ti lo buco Natali. Ce l'ha, Fusaro ce l'ha, io non ne ho a dartene, perché c'ho la calata qua di H155 si chiama, ed è grigio. Sono questi giorni glielo richiedo, me l'ha detto pure cosa, me l'ha detto, anche Marco me l'ha detto, che lui aveva preso lì. Ciao Natali, buongiorno, ben ascoltato e tanti auguri. Vedi, io manco mi ricordavo H100, 155, ma da Fusaro ti prendi 10 metri di H155, togli con l'RG58 e poi mi dai la risposta. Tu sai quanto lavora molto, molto meglio la radio, l'amplificatore, hai molto più resa, capito? E magari aumenti anche di segnale, hai più ricezione e tutto. Lo sto cercando. Ah, dai, abbiamo lasciato in parcheggio a Franco. Franco! No, stavo mettendo la stessa nel 213. E quello che c'era mi stava funzionando bene. Ehi, Fra. Dai, riprendi che vado a girare le patate. Siamo battato, vai. Sì, ma io lo sto cercando, H155. Lo sto cercando, lo so, cioè lo volevo prendere. Adesso mi hanno dato questo nuovo, però non è la matte si gozzano, perché quello là va con l'antenna diretta di più. Ci passa la Sanradio, va, ho guardato. Ma dice Natalino anche questo? Yeah, c'è Natalino. Ma c'era? Io non la sento io, strano. C'è, o c'è, non è perché Natalino parla ogni tanto, capito? Natali! Sto mangiando, Azzu, e poi già lo sai che non posso modulare. Azzu, ti stavo dicendo, il segnale è sempre uguale. Hola! Sentite? No, vanno 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ehi, avanti, fra, mi senti tu? Ehi, adesso se ha cambiato qualcosa, ho cambiato lo settore. Un pochino, sì. Ah, già va bene, già, vai sempre bene, vai. Chi è che vuole entrare? Avanti. Se ho cambiato il radio, dai. Cappa, fra. Hola, mi senti lo stesso? Sì, mi senti. Ehi, va bene. Più basso di quello là, però ci va più forte. Vabbè, dai. Adesso sto usando questo tipo di radio qua, dai. Già va bene lo stesso. Claudio, ci sei? Gira a durare un battato. Claudio sta girando le patate. Aspetta. Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. Caffa. E ci... guarda un attimino. Carichi su. Andare. Andare bene nera. Ci vado un attimino al QTH piccolo, vado che... Deve entrare in bagno, mi fa che parole. Oh ragazzi, invece io vi saluto, dai, se ci siete ci sentiamo più tardi, cordialità a tutti, rinnovo gli auguri anche a quelli che sono in ascolto, buon pranzo, che qua sono arrivati gli ospiti e quindi devo andare in cucina. Beh, ciao a tutti, a stasera se coincide, buon pranzo, ciao ciao. Ciao, buon pranzo, buon tutto anche io chiudo. Ciao Antonio, buon pranzo, fate auguri a tutti quelli che sono in ascolto, per me è RT. Buona ascolta se coincide a stasera, ciao ciao.